Per un po' Luna di Primavera rimase seduta a pensare. Forse il vecchio Yeh non sapeva com'era infelice Fiore di Prugno. Forse se qualcuno glielo avesse detto avrebbe cambiato idea. Ma chi? E infine decise di arrischiare un'altra sgridata da sua madre e ritornò lentamente verso il cortile della famiglia. Quando sbirciò nella camera dei genitori e vide che la serva Ciccia, ora evidentemente in ottima salute, stava acconciando i capelli di sua madre, il coraggio le venne meno. Neve Fragrante si vantava della nuova pettinatura che inventava ogni settimana e detestava che si interrompesse la sua toilette. Ma i capelli formavano ancora i petali ampi di un loto, come all'ora del tè. Ciccia stava solo aggiustando qualche ciuffo fuori posto. Luna di Primavera si avvicinò al tavolino della toilette sul quale era posato soltanto lo scrigno dei cosmetici. «È quasi ora di cena», disse Neve Fragrante con uno sguardo di intesa alla sua serva. «Cosa c'è di tanto urgente da disturbarmi?» Ciccia, che governava sul cortile della famiglia come sul marito, vecchio falco, non trascurava mai di esprimere la sua opinione. «Vostra figlia padrona dovrebbe essere chiamata capra fastidiosa, nervosa e cocciuta». La passa sempre liscia per via dei suoi grandi occhi neri. Ma con la sua futura suocera, non le saranno certo d'aiuto. Spero proprio. Ciccia assunse una posa di preghiera come la fece che la fece assomigliare a un grasso Buddha, di vedere come se la caverà allora. E le due donne scoppiarono a ridere. Luna di Primavera diede uno strattone alla tunica nera della serva. Vattene, Ciccia, voglio parlare con mia madre. Figlia! La voce di Neve Fragrante si fece acuta come sempre quando era infastidita. Che modi sono questi? Oh, ma scherzava, padrona. Ciccia era pronta a perdonare come era pronta a rimbeccare. I bambini non devono essere incoraggiati a comportarsi così. Dimmi, figlia, che c'è? Neve Fragrante consultò lo specchietto nello scrigno dei cosmetici. Madre, vi prego, fate che il vecchio Ye mi ridia fiore di prugno. Neve Fragrante lanciò nello specchio un'occhiataccia all'immagine di Luna di Primavera. Sei impertinente, bambina. Queste sono faccende da adulti, non ti riguardano. È stata fatta una promessa e la cosa è sistemata. La promessa deve essere rotta. Tutte e due le donne si girarono bruscamente e la figlia si nascose rapidamente dietro la mole di Ciccia per proteggersi dalla madre. Come puoi pensare una cosa simile? Sentendosi, la madre si interruppe e quando proseguì la sua voce non era più stridula ma fredda come l'acqua di fonte. Che direbbero gli altri se disonorassimo il nostro nome per una schiava insignificante? Perderemo la faccia per generazioni. Smettila di impicciartene, figlia mia, prima che si sappia per tutta la città che sei avventata e impertinente. Vuoi compromettere le tue probabilità di un buon matrimonio? Nemmeno la dote più cospicua può persuadere una famiglia ad accettare qualcuna che semina guai. Neve Fragrante tornò al suo specchio. Un'altra forcina qui, per favore, Ciccia. Il discorso era concluso. Luna di Primavera si voltò e lasciò la stanza, camminando lentamente lungo la veranda verso la biblioteca paterna e poi verso la sua camera. Quando arrivò alla porta di Talento Sincero, si fermò. Era seduto, come sempre, prima della cena alla sua scrivania e leggeva uno fra le migliaia di libri rilegati disposti ordinatamente sugli scaffali lungo tre pareti. Non parlava quasi mai con lui, perché lui studiava sempre. Ma presto si sarebbe unito agli anziani per la cena. Forse non si sarebbe risentito se l'avesse interrotto. Forse questa volta le avrebbe dato una mano. Dopo essersi assicurata con una rapida occhiata che sua madre e Ciccia non fossero in vista, entrò nella stanza. Per favore, padre mio, posso parlare con voi? Talento Sincero non rispose. Lei non ne fu stupita. La sua mente era sempre lontana. Forse alla corte del principe Ting ad ascoltare il saggio. Parlò di nuovo. Non avendo ottenuto risposta, si avvicinò coraggiosamente alla scrivania e mise una mano sulla pagina che lui stava leggendo in quel momento. Al che lui alzò lo sguardo, lievemente stupito. I suoi occhi gentili lentamente misero a fuoco il volto della sua unica figlia. Oh, sei tu? Tua madre ha mandato a chiamarmi? Ho dimenticato un ospite onorato o una riunione del clan? No, padre, sono venuta a parlare dei miei problemi. Va da tua madre, saprà cosa fare. Oh, ma lei non può farci niente. E allora cosa ti aspetti da me? Oh, è per via di Fiore di Prugno, padre, è stata data al vecchio Ye. Io non voglio perderla. Perplesso, Egli si fece passare fra le dita i grani del rosario di giada che teneva sulla scrivania. Ma cosa dici? Chi è Fiore di Prugno? È la mia schiava. Oh, ma allora non è niente, tua madre la sostituirà. Ma io non voglio nessun'altra. Figlia mia, Talento sincero le mise una mano sulla spalla. Il grande saggio ha detto che l'uomo superiore cerca tutto quel che desidera in se stesso, l'inferiore negli altri. Sì, padre, ma se è così, perché il vecchio Yeh vuole la mia fiore di prugno? Talento sincero aveva già distolto lo sguardo. La sua faccia lunga e pallida era di nuovo china sui libri. Un dito sottile seguiva i caratteri che leggeva. Luna di primavera fece un inchino. Grazie, padre. Si voltò e si allontanò dallo studio lungo la veranda fino alla propria stanza. Dove sei stata? Chiese Fiore di Prugno. Era seduta sullo sgabello dipinto e stava arrotolando una nuova serie di bende per i piedi. Sono stata dappertutto cercando di far rompere quella promessa, ma nessuno mi ha aiutata. Luna di primavera sedette accanto alla schiava, guardandosi le mani. I tuoi anziani hanno ragione, disse Fiore di Prugno. Chi può annullare parole già dette? Non piangerò più. Non ti capisco, Fiore di Prugno. Cosa significa? Come potresti capire? Ribatté lei, arrotolando le bende sempre più velocemente. Tu hai una casa, tu non sei mai stata al di là di queste mura. Ma io darei i miei portafortuna per vedere che c'è là fuori. No, non è vero. È più distante dell'imperatore, pensò Luna di Primavera, e le lacrime sgorgarono di nuovo. Ti prego, Fiore di Prugno, mi fai piangere. Allora la schiava mise da parte le bende e si voltò verso Luna di Primavera, sollevando dolcemente la faccia della bambina finché poté guardarla negli occhi. Sei troppo giovane, padroncina, per capire, ma forse un giorno ricorderai. E la sua voce si spense. Fiore di Prugno, fece Luna di Primavera. La ragazza sussultò. Sì, disse. E poi, anche dopo che mio padre mi vendette e andò via, sognavo ogni notte che se fossi stata docile e buona lavoratrice, la matriarca mi avrebbe sposata a un giovane artigiano della città o al figlio di un servitore del clan. Avrei avuto una casa e il mio posto nel mondo come nuora, moglie e madre, ma essendo una schiava, i miei sogni contano poco. Poi, oggi, mentre tu dormivi, il mio sogno è svanito. Non sarò mai una moglie, solo una concubina. Quando tu hai detto che avrei avuto un figlio sarei stata onorata, le tue parole mi hanno trafitto il cuore come una pugnalata. Vedi, io non avrò figli mai. Il vecchio Yeh è troppo vecchio. Ha una moglie e molte concubine, ma nessun figlio, e io sarò un recipiente vuoto. Non avrò mai un mio posto nel mondo. Quando il vecchio Yeh morrà, o se lo scontenterò, forse mi butteranno fuori come si fa con l'acqua della tinozza. E non ci saranno più sogni per me. La ragazza si alzò. A Luna di Primavera apparve un'estranea mentre raccoglieva le bende e le portava nel guardaroba. A cena Luna di Primavera mangiò poco e non parlò. Si accorse che gli altri a tavola non si divertivano come al solito a stuzzicarla, essendo la più giovane delle ragazze, ma la guardavano in silenzio come se fosse tornata in mezzo a loro dopo una lunga malattia. Fiore di Prugno andava avanti e indietro, servendo la sua padrona come sempre. Poi, a metà della terza portata notò che la matriarca mancava dal suo posto d'onore. Si volse alla sesta cugina e parlò per la prima volta. Dov'è la nonna, sorella? Il nonno è inquieto e lei lo accudisce. Sarei dovuta andare subito da lui, pensò. Anche se era malato, il nonno era il capo del clan. Tutto quel che lui decideva veniva fatto senza discussioni, senza indugi, se solo fosse riuscita a vederlo. Con un gesto chiamò Fiore di Prugno e la mandò a chiedere udienza presso il venerabile vecchio. Il patriarca della casa dei Chang giaceva nel suo letto di palissandro. Intorno a lui si aggiravano medici e servi. La loro presenza lo infastidiva perché lui stava morendo e quelli non servivano a niente. Avrebbe detto loro di andarsene se avesse pensato che gli avrebbero ubbidito, ma era sicuro del contrario. Si sarebbero limitati a blandirlo, anche se un tempo la sua parola era stata legge per intere province. Come funzionario che indossava le insegne della gru bianca, era stato trattato con deferenza e rispetto secondo i codici rigidi dell'etichetta. Ora, Stancamente chiuse gli occhi ricordando il rifugio inviolato che era stata quella stanza, non solo per lui, ma per tutti i patriarchi prima di lui. Vedeva senza guardare ogni particolare, i paraventi pieghevoli di legno traforato che servivano come porte, le curve dolci delle sedie dallo schienale alto a due accanto alla scrivania, dalle maniglie lucenti di ottone, le pergamene alle pareti, con sopra scritte e dipinte le poesie scambiate con gli amici attraverso generazioni, le porcellane raccolte da suo nonno, le giade che suo padre aveva custodito come un tesoro e i bronzi che apprezzava tanto in mostra in identiche vetrine aperte, i libri che il clan valutava sopra ogni altro suo bene. Un vecchio aveva bisogno di ordine, non di questo caos che aveva invaso il sanctum del suo letto. Servi, preti, spiriti, la sua moglie anziana, tutti cospiravano contro di lui. Non era mai solo, c'era sempre qualcuno, anche quando dormiva. E ora anche Ciccia si era unita alla folla, portando un brodo speciale che suo marito aveva ricavato da una mammella di mucca. Ne sentì l'odore. Portatelo via, disse aprendo gli occhi. Ci fu del trambusto alla porta, fece un segno al capo della servitù. Che c'è? Non sono così malato da non poter sapere cosa succede. Niente, signore, niente di cui voi dobbiate preoccuparvi, è soltanto Fiore di Prugno, la schiava, dice di avere un messaggio per voi, le ho detto di andarsene. Folle presuntuoso, per fargli dispetto decise di vedere la ragazza. Mentre Fiore di Prugno si dirigeva verso il letto, le fece cenno di avvicinarsi il più possibile, fino al posto d'onore accanto ai cuscini che gli sorreggevano la testa. Bene, ragazza, perché sei venuta? Rimase infastidito nel sentire la propria voce stridere. Vi prego, signore, sono la schiava di Luna di Primavera. Vostra nipote mi ha mandato da voi per richiedere un'udienza. Vorrebbe augurarvi una pronta guarigione. Luna di Primavera. Persino il suo nome era bellissimo. Il venerabile sorrise. Severi coi figli, gli uomini cinesi erano indulgenti coi capricci dei nipoti. L'avrebbe ricevuta. Ma prima che potesse parlare, la matriarca aveva deciso: impossibile! Il padre dei miei figli ha bisogno di riposo, non di compagnia. Il vecchio la fulminò con un'occhiata. Dia alla mia diletta che può venire. Fuori tutti gli altri, compresa la madre del mio figlio maggiore. Fuori, fuori! Agitò la mano e tutti scapparono via come pernici spaventate da un'ombra. Sorrideva ancora fra sé quando Luna di Primavera si affacciò alla porta, anche se faticava a stare sveglio. La sua testa oscillò sul collo sottile e sbatté rapidamente le palpebre. Nonno, ho il permesso di entrare? Come? Oh, sei tu, nipote! E improvvisamente ebbe la consapevolezza della sua morte imminente. Lei era così giovane. Vieni, bambina, vieni. Siedi accanto a me, riscaldami le mani e il cuore. Lei si affrettò a ubbidire, salendo sul letto, stringendo fra le proprie le dita di lui, un tempo aggraziate, ora nodose e macchiate, e posandogli teneramente la guancia sul petto. Il vecchio sospirò. Attenta a non muoversi, Luna di Primavera disse: Mi dispiace tanto che non stiate bene, nonno. Che malattia avete? Il male della vecchiaia. Ma presto starete bene, lo so. Forse. Dimmi perché sei venuta. Nonno. Luna di Primavera dimenticò di star ferma e sollevò la testa. Qualcosa di terribile sta per accadere. La mia Fiore di Prugno è stata promessa al vecchio Ye. Io non voglio che se ne vada. Per favore, fa che rimanga, oppure morrò di dispiacere. Il venerabile sospirò di nuovo. La bambina era così innocente. No, piccola, non morrai. E invece sì, lo so. Per un attimo egli chiuse gli occhi cercando di ricordare la sua prima delusione, ma non poteva ricordare. Nonno? Lui si sollevò un poco. No, piccola, non morrai. Ricorda che non siamo dei e non possiamo plasmare gli eventi secondo i nostri desideri. Siamo soltanto dei mortali che devono imparare non a combattere con la vita, ma a cederle. Ma perché io devo arrendermi ai desideri del vecchio Yeh? Per via dell'onore e del dovere. Questa faccenda conta assai più di quanto sembri, Luna di Primavera. Ma è soltanto un debito di gioco, nonno, me lo ha detto il giovane zio. Il giovane zio avrebbe dovuto tenere a freno la lingua. Inoltre conosce soltanto l'aspetto esteriore delle cose. Credimi, non posso cancellare quel che è stato fatto, non devo nemmeno provarci. Il vecchio vide che la nipote aveva gli occhi umidi di lacrime. Un ultimo dono degli dèi, pensò, questo sublime ritratto della giovinezza. E un ultimo dolore per doverlo offuscare. Ti prego, luna di primavera, sei troppo grande per piangere. Lascia che il nonno asciughi gli occhi e racconti una storia alla sua prediletta. Le dita gli tremavano mentre le sfiorava le guance. Tanto tempo fa viveva una coppia che desiderava un figlio maschio più di qualsiasi altra cosa al mondo. Ma non ne venne nessuno. Dopo i primi anni infecondi, la buona moglie supplicò il marito di prendere una concubina. Dapprima lui rifiutò, infine acconsentì, ma non venne nessun figlio. Benché vivessero in una grande casa, possedessero terre e ogni ricchezza, ed egli fosse un funzionario rispettato, persino i mendicanti erano dispiaciuti per loro, poiché l'uomo era l'ultimo del suo lignaggio, e persino l'adozione era impossibile. Lui e sua moglie dovevano avere un figlio maschio e essere condannati a errare come vagabondi nel tempo eterno, senza un erede per tenere in ordine le loro tombe, fare offerte e compiere le cerimonie. Non avevano alcuna possibilità di assicurarsi il benessere spirituale nell'altra vita. La coppia pregava notte e giorno per un figlio. Purtroppo però le loro preghiere rimasero senza risposta. Disperatamente pregarono di avere anche soltanto una figlia, pensando che con una dote cospicua avrebbe trovato un marito di famiglia povera che avrebbe accettato il nome del clan. Ma nemmeno una figlia nacque. Mentre il funzionario serviva allo Yang lontano dal suo Laokia, lui e sua moglie abitavano accanto a un'altra famiglia che aveva un figlio. Un anno? In un'epoca in cui entrambi i mariti erano assenti al servizio dell'imperatore, scoppiò un'epidemia. In tutte le famiglie morì qualcuno. La paura attanagliava tutti i cuori. La morte si abbatteva così spesso e inesorabilmente che pochi erano rimasti per seppellire i morti e i corpi marcivano per la strada. La madre della casa accanto e suo figlio furono contagiati. Tutti i loro fedeli servitori erano già morti e gli altri erano fuggiti. Fu la vicina senza figli che si prese cura di loro, cucinando, pulendo, assistendoli. Non si allontanò mai dal loro capezzale, non chiuse mai gli occhi. La sera del terzo giorno, all'improvviso, il ragazzo impallidì, chiuse gli occhi, smise di respirare e divenne freddo. Ma la buona vicina non voleva accettare la morte. Afferrò la casacca del ragazzo e corse nelle strade dove sciacalli, spiriti e banditi vagavano liberamente, agitando l'indumento e gridando: Spirito del ragazzo, torna indietro! Spirito del ragazzo, torna indietro! Si aggirò per i vicoli bui cosparsi di carne putrida, un'ora dopo l'altra, gridando. E solo quando la sua voce si fece rauca e i suoi piedi sanguinarono, ritornò verso casa. Là, trovò il ragazzo rosso di febbre ma vivo. La buona vicina aveva sottratto il suo spirito ai morti e non era nemmeno suo figlio. Ora la buona vicina è vecchia. Lei e suo marito sono rimasti senza figli, ma recentemente ha sognato che se una certa schiava che sa essere forte e intelligente dovesse diventare concubina del marito, questa ragazza avrebbe un figlio che diventerebbe suo erede. La buona donna crede che il suo sogno sia un auspicio della dea Quan Yin. Dapprima suo marito ha ignorato i suoi desideri, ma sua moglie è deperita e infine egli ha escogitato un modo per avvicinare il clan al quale la ragazza appartiene. Doveva farlo in modo indiretto perché non è cortese chiedere qualcosa di importante ad amici che non possono rifiutare. Il venerabile vecchio si interruppe chiudendo gli occhi per un attimo. Troppo era il dolore negli occhi di lei e nel suo cuore. Quando guardò di nuovo, la vista gli si era velata, ma doveva terminare la storia. Sussurrò raucamente, incapace di schiarirsi la gola. Nipotina, il ragazzo della storia era il mio figlio maggiore, tuo zio, talento coraggioso. La schiava è Fiore di Prugno e la buona vicina è la moglie anziana del vecchio Ye. Si fermò, quasi aspettando che la bambina reagisse. Poiché lei rimase zitta, continuò: Luna di primavera, questa storia non ha ancora una fine. Quale fine le daresti tu? Per diversi minuti non vi fu nessun suono, se non il respiro faticoso del vecchio. Poi la piccola disse con un filo di voce: Nonno, vorrei non aver mai sentito la vostra storia. Prima ero sicura di quel che fosse giusto fare. Ora mi avete confuso le idee e io non so chi ha ragione e chi ha torto e non voglio scegliere. Non c'è nessuna scelta, bambina mia. Non c'è che una conclusione possibile. Dobbiamo onorare i nostri debiti. Solo gli dèi possono cambiare il destino e tu, mia diletta, devi cedere. Semplicemente cedere. A sentir voi sembra così facile, nonno, ma il mio cuore è spezzato. Ora Luna di primavera singhiozzava. Oh, se ogni tanto il tuo cuore non si spezzasse, come faresti a sapere che c'è? I cuori si spezzano, poi si aggiustano e si spezzano e si aggiustano di nuovo in un cielo senza inizio e senza fine, così come l'alba segue la sera e il crepuscolo il mattino. Le asciugò le lacrime, i singhiozzi si placarono. A sentir voi sembra così bello, nonno. Lo è, fece lui a se stesso e a lei. Ora è tardi, devo dormire. La bambina scivolò giù dal letto e si inchinò. Buonanotte, nonno. Lui aveva già chiuso gli occhi. Luna di primavera uscì lentamente dalla stanza, allontanando il momento in cui avrebbe dovuto spiegare alla schiava quel che era successo. Come sarebbe cambiata la vita, pensò, quando Fiore di Prugno fosse partita. I suoi primi ricordi non riguardavano sua madre o suo padre, ma lei che cavalcava sul dorso della schiava. Anche quando era stata in grado di camminare, spesso preferiva essere portata da lei, cullata dal ritmo della sua andatura. E poi la guidava, tirandole i codini come se fossero stati redini. Per la prima volta, Luna di primavera ebbe il dubbio di averle fatto male. Attraversò la soglia. Fiore di Prugno aspettava appena oltre la porta, le mani lungo i fianchi, alta e diritta come un albero che rifiuti di lasciarsi piegare dal vento. Luna di primavera avrebbe voluto correrle incontro, ma non lo fece. E fu sollevata quando Fiore di Prugno rimase silenziosa, seguendola a qualche passo di distanza mentre ritornavano al cortile della famiglia. Era una sera più calda del solito e il profumo dei gelsomini aleggiava nell'aria. Il cielo era chiaro, cosparso di stelle. Oltre le mura del giardino qualcuno suonava il flauto. Quando raggiunsero il loro alloggio, la schiava svestì la bambina e le preparò il letto, e improvvisamente Luna di primavera si sentì esausta, scivolando sotto il copriletto come se fosse già un sogno. La ragazza le lisciò la trapunta, le scostò i capelli dal volto e si voltò per andarsene. Buonanotte, fiore di prugno. Sogni d'oro, giovane padrona. La prima voce che sentì fu quella di sua madre. Fate in modo che resti nella sua stanza, non deve vedere. Avanti, ora. Luna di primavera saltò su e aprì le tende. Ciccia era sulla soglia, ansimando, asciugandosi il faccione rotondo col grembiule. Che c'è? Perché sei qui? Gridò la bambina. Ciccia cominciò a gemere. Smettila e dimmi cos'è successo. Dov'è Fiore di Prugno? Ciccia si soffiò il naso e borbottò una preghiera. Sta arrivando tua madre. Te lo dirà lei? No, voglio saperlo subito. Cosa è successo? Ma Ciccia si limitò a scuotere la testa. Luna di primavera saltò giù dal letto e corse verso la porta. Ciccia l'afferrò, ma la bambina si liberò e fuggì, e fuori dal cortile correva della gente. Lei la seguì. Nel giardino del cipresso la folla silenziosa fissava il vecchio albero. Luna di primavera non vedeva e nessuno si spostava per farla passare. Si arrampicò freneticamente sul dorso della tartaruga di pietra e allora vide. Fiore di prugno penzolava da un ramo. Aveva indossato per il suo ultimo viaggio le sue sete più fini e una sciarpa della festa intorno al collo. La schiava attuò la sua vendetta. La vergogna ricadde sulla casa dei Chang. Per onorare un debito, il clan era incorso in un altro. Il vecchio cipresso fu abbattuto e quella stessa settimana il venerabile vecchio morì. Ciò accadde a Xuchao, sotto il regno di Huangzu della dinastia Qing, durante la quinta luna dell'anno del drago, il 1892. Vento dell'Ovest. 1. Il nuovo patriarca. Si dice che Yung Wing fosse il primo a essere chiamato uno studente di ritorno. Nel suo villaggio parlava cantonese. Alla scuola delle missioni imparò l'inglese. Dopo che ebbe assimilato la religione degli stranieri, fu mandato a studiare a Yale, dove si laureò nella classe del 1854. Al suo ritorno si assunse le responsabilità che l'occhio serrato dell'ignoranza non vede mai e sognò di mandare tanti altri ragazzi cinesi a studiare in America. 18 anni dopo, i suoi sogni si realizzarono. Il governo mandò 120 giovani presso famiglie di Hartford, nel Connecticut. Secondo il piano di Jung Wing, ciascuno doveva ricevere 15 anni di educazione occidentale prima di ritornare al servizio della Cina. In breve tempo, come Jung Wing, essi furono trasformati. Più congregazionalisti che confuciani, indossavano abiti occidentali invece delle tuniche del Regno dei Fiori. In breve tempo, avvertendo il pericolo, il governo li richiamò. Ma era troppo tardi. In seguito ai trattati, l'impero era già infestato di porti in cui i barbari dominavano, disseminando i modi di fare stranieri. Lungimiranti gentiluomini mandavano già i loro figli a essere istruiti con i metodi alieni, sperando così di salvare la Cina. Migliaia e migliaia di poveri contadini del distretto della famiglia di Jung Wing nel sud avevano già fatto vela verso le montagne d'oro di tutto il mondo, mandando a casa rimesse, merci straniere e nuove idee di paesi che non si chinavano all'imperatore. Uno di loro sarebbe diventato famoso come il padre della rivoluzione cinese. A 13 anni, Sun Yat-sen fece vela verso Honolulu, dove assimilò la religione straniera. Al suo ritorno fece a pezzi gli idoli dei templi e, benché studiasse per diventare dottore, praticava Jerming, la recisione della vita. Storia cinese. Talento coraggioso prese la busta che la padrona di casa gli porgeva e se la infilò in tasca. «Non l'aprite?» C'era preoccupazione oltre che curiosità nella voce di lei. «Oh, ne conosco già il contenuto. Spero che non siano cattive notizie.» «No, niente di imprevisto. Grazie di avermi aspettato.» Dopo un breve inchino si avviò su per le scale. «State bene, Mr. Chang?» «Sì, benissimo, grazie.» Salì lentamente verso la sua stanza al terzo piano. Come sempre, l'odore del grasso di pancetta si faceva più insistente a ogni passo, ma ora, per la prima volta da quando si era installato lì, gli diede la nausea. Si frugò in tasca alla ricerca della chiave. Il debole lucore del sole al tramonto illuminava soltanto la scrivania vicino alla finestra. Non accese le lampade, ma si tolse il cappotto e la cravatta prima di sedere alla scrivania. Fissò a lungo la busta. Erano trascorsi 8 anni da quando aveva detto addio a suo padre. Ora non l'avrebbe rivisto mai più. La perdita era prevista. Egli stesso, il giorno del suo 60° compleanno, gli aveva offerto con devozione una bara massiccia fatta di legno delle foreste di Liu Chao. Le vesti funerarie, cucite esclusivamente da donne doppiamente benedette per l'abilità della loro arte e per la felicità da loro dispensata a padri, mariti e figli, erano pronte da tempo. E il venerabile, dopo molte riflessioni, aveva scelto un volume prediletto di odi da portare con sé oltre le sorgenti gialle. Privilegiato alla nascita per il nome e per il clan, aveva reso onore agli antenati con i suoi notevoli servizi e la pietà filiale. Era vissuto in armonia. Doveva essere morto in pace. Nessun figlio poteva chiedere di più. Talento coraggioso era ansioso di rendergli omaggio. Aprendo la busta, lesse: «Il venerabile vecchio vola sulla cicogna». Controllò la data del telegramma e il suo calendario. Non c'era tempo da perdere. Se voleva raggiungere Xuchao prima del 49° giorno, doveva partire da New Haven il più presto possibile. Con uno sforzo si alzò e accese le lampade, prese il baule dall'armadio e cominciò a riempirlo meccanicamente con gli oggetti raccolti negli ultimi 7 anni, la mente agitata da ricordi che affioravano e svanivano come fuochi d'artificio in una notte buia. L'orgoglio negli occhi di suo padre, quando suo figlio maggiore gli era comparso davanti per la prima volta, portando la veste con le insegne del rango dell'airone nobile ricamato davanti e dietro. Il mantello morbido, foderato di pelliccia di suo padre, e il giorno in cui si era nascosto fra le sue ampie pieghe per un pomeriggio intero, dopo aver rovesciato i meravigliosi crisantemi del vecchio giardiniere. Sorrise fra sé. Il mantello non l'aveva salvato dalla giusta collera del vecchio servitore. «Ciascun fiore è come un bambino per lui», aveva detto suo padre, «non dimenticarlo». Tanti ricordi, la mano di suo padre sulla sua fronte quando, ritornato dallo Yang, aveva scoperto che suo figlio era stato in punto di morte, le parole del patriarca quella notte, subito dopo che i francesi avevano affondato la flotta del sud, quando aveva chiesto di vederlo. Figlio mio, ti mando in America, aveva annunciato. Esterrefatto, senza parole, Talento coraggioso era rimasto a fissare gli anelli di fumo che salivano dalla pipa ad acqua del venerabile. Era stato un tale fallimento come magistrato del distretto da dover andar via? Certo, il suo modo di governare aveva scontentato tutti, l'autorità manciù, i mercanti Han, i forestieri di cui aveva studiato la lingua e i costumi. Il patriarca aspirava dalla sua pipa. Ti ho sorpreso, a quanto pare. Allora lascia che ti chieda quanto tempo impiegherò per finire di fumare questa pipa. Talento coraggioso esitava. E allora? 10 minuti? Pensa, la nostra flotta del sud è stata affondata ancora più velocemente. Se deve riprendersi, la nostra Cina deve modernizzarsi, ma i conservatori a Pechino hanno chiuso il Tung Wen Quang per gli studi stranieri e richiamato tutti gli studenti mandati all'estero dal governo. Noi che ci opponiamo a loro dobbiamo mandare privatamente i nostri figli a studiare, e tu, figlio mio, sei logicamente un candidato. La tua fidanzata è morta e nessun'altra può essere prescelta per diversi anni in ossequio al suo clan. Hai una mente indagatrice. E i miei fratelli andranno anche loro? No, no, ho altri piani per Talento Nobile. La Cina ha bisogno di soldati moderni, si arruolerà nella nuova accademia militare creata dal governatore dello Shantung. Siamo fortunati che non tutti i funzionari seguano la linea conservatrice di Pechino. E Talento Sincero? È un topo di biblioteca e resterà a casa. Il venerabile aveva continuato a fumare in silenzio fino alla fine, poi aveva messo da parte la pipa e si era alzato di fronte a Talento coraggioso che non si era mosso. Con la solennità esclusiva dei rituali di clan, il padre stava decidendo il futuro del figlio. Tu andrai in Occidente, studierai le scienze degli stranieri e tornerai per insegnare al tuo clan e dividere con i tuoi compatrioti i segreti della loro forza. Settimane dopo, il giorno della sua partenza, il venerabile l'aveva onorato accompagnandolo alla sua portantina. Con lui aveva attraversato il cancello e atteso, vicino al muro che nascondeva agli spiriti maligni, l'ingresso della casa, che il suo figlio maggiore prendesse posto sulla lettiga. Era rimasto là finché Talento coraggioso non aveva più potuto distinguere i suoi lineamenti. Era ancora là, una figura snella, eretta, la veste ricamata d'oro scintillante nella luce della sera quando la portantina era scomparsa oltre l'angolo della pagoda d'inchiostro. Quel gesto era stato più eloquente di qualsiasi parola.